visto possesso palla, ho visto che dominavano il gioco, ho visto tutto quello che non si è visto prima. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quale cicco che ti smazza la hit voodoo? È fan pa' you, è fan pa' you. E si avampa, si prende, si spinge mo. È funky do, è funky do. La pressione di Lasagna, Motolivo ruba palla. È Lasagna che va via. Attenzione, anzi è Crini. Col sinistro, Donnarumma! Donnarumma! Ma che è sta merda? Beh, in effetti. Perché non calci un po' di sapido rap? Milan Carpi finisce 0-0 a San Siro. Sapido rap, è quello che si straccia qua. Hablano bla bla, cicciatone, slabra. Sto magma, tu ne fa chi ne sgambra. Il Milan queste partite le deve vincere, deve giocare in casa, deve avere una rabbia e una cattiveria agonistica sicuramente diversa. A tratti, secondo me, qualcosa di buono si è visto, anche il fatto di avere la voglia e la volontà di continuare a giocare palla e non solo di magari cercare palle lunghe anche nei momenti di difficoltà. Quello che ci è mancato, come ho già detto, è stato l'attacco della porta. Ma che è sta merda? Beh, in effetti. Quale cicco che ti smazza la hit voodoo? È fan pa' you. Sicuramente in quel momento era in transagonistica, sicuramente è un episodio da stigmatizzare, sicuramente è un qualcosa che non succederà più. In quel momento lui ha reagito male, ma ripeto, quello che mi è dispiaciuto più che altro è che non abbia dato la mano a un suo compagno, perché alla fine quello che conta, ripeto, è avere tutti l'unico obiettivo, essere un gruppo unito, e non bisogna pensare all'io, ma bisogna pensare a noi, e questa deve essere una regola importante e ben definita. Bene, effetti. Sapido rap, è quello che si straccia qua. Oh, che noia, che noia. Dopo Mihajlovic, Brocchi, proporrei tapiro d'oro. Un altro tapiro d'oro per Mihajlovic, perché certamente è colpa di Sinisa la figuraccia di ieri sera a San Siro con i Lotito Boys che volano verso la salvezza. Lotito Boys inteso come Carpi. Ciao Giovanni Capuano. Ciao, tra l'altro imbattuti a San Siro, perché Lasagna aveva fatto andare di traverso il pranzo a Mancini. Già, ricordo. No? Ti ricordi quella partita? E ieri è andata come è andata. E poi magari ci interroghiamo, facciamo una domanda seria. Che non è là. Rischia tutto! Che non è là. Subito! No, facciamo una domanda seria. Oggi abbiamo preparato rischia tutto, ecco, io ve lo dico. Ma se il trequartista è il peggiore in campo contro Dimmi il Carpi e non fa impazzire Amarassi contro la Samp, non avevano forse ragione tutti gli altri allenatori precedenti a del due Milan domande. A dire rispondimi che questa squadra domande. Non può giocare col modulo che piace al presidente? Rispondimi a due domande. Sì. Primo, perché deve giocare Kevin Prince Boateng, ormai ex giocatore da un paio di stagioni abbondanti? Primo, e secondo, perché Bacca, come ha fatto oggi, deve chiedere scusa con Instagram, mi pare, con uno dei social network, Instagram, sì, i soliti social network, deve chiedere scusa per l'atteggiamento ieri sera. Dovrebbe essere Brocchi a chiedere scusa per aver sostituito Bacca, sì, ieri non sera. Non è che Bacca avesse fatto chissà che cosa, no, nei 60 minuti in cui è stato lui più in altri campo. Più altri 10. Il problema è che ieri hanno giocato in 11 e quello che si è visto, secondo me, non deve essere nemmeno sorprendente. La qualità del Milan è questa, quest'anno Milan continua a giocare peggio di quella che è la sua qualità, quindi io non ho cambiato idea. L'esonero di Mihajlovic è stato sbagliato per tempi, per modi, per prospettive, perché consegnava la squadra a un allenatore che ci sarà per 7 partite e poi si vedrà, e questo vuol dire che non c'è programmazione, però non deve sorprendere, perché Mihajlovic ha lasciato il Milan con 49 punti dopo 32 partite, dopo aver fatto vedere di non essere capace di fare la differenza contro le piccole, e quindi l'esonero di per sé ci stava. Il problema è che si è ricominciati esattamente, non ci sta, si è ripartiti esattamente dallo stesso punto. Non ci sta per tempi e modi, perché deve giocare Kevin Prince Boateng, che è ormai un ex giocatore da un paio di anni abbondanti, ripeto. Ma perché tu ci provi? Non so se hai letto, se qualcuno si ricorda, vuoi giocare che cosa ha detto Savicevic della prestazione di Bonaventura. Savicevic, dopo aver visto Bonaventura giocare trequartista a Marassi, quindi partita persa, dove si poteva anche dire che era andato tutto bene, ha detto: beh, io l'ho visto male, cioè non ci siamo, non hai movimenti, dovrà lavorare. E Brocchi, che probabilmente di calcio qualcosa capisce, ha cominciato il casting e ha provato col secondo della fila, ma il tema è che il Milan il numero 10 non ce l'ha, no. E forse forse Berlusconi aveva ragione quando diceva che Bacca e Balotelli insieme non possono giocare, solo che lo diceva Mihajlovic, evidentemente con Brocchi va tutto bene. Allora, Galliani ha parlato del futuro di Balotelli pessimo ieri. Io sono stato definito da un giornale un sindacalista degli anni 70 perché ho detto che Mario stava lottando per il suo posto di lavoro. Deve lottare fino al 21 di maggio per conquistarsi la riconferma da parte del Milan. Noi finiremo una settimana dopo degli altri questa stagione, quindi andremo avanti fino al 21 di maggio e quindi noi vogliamo bene a Mario. Mario sa benissimo, perché gli abbiamo detto sia io che il suo procuratore Raiola, che si deve riconquistare questa permanenza a Milan. Beh, ieri non benissimo, eh? Ieri non benissimo, tra l'altro mi pare ammonito squalificato, no? Sì, quindi... anche se quello è l'aspetto minore. Quindi è andato a prendere un pallone, ha preso un cartellino giallo, è stato tranquillo. Noi con Balotelli ci stiamo abituando per riduzione. Adesso siamo contenti che è disciplinato in campo, però ieri non ha fatto un tiro in porta. Amarassi più o meno non aveva fatto un tiro in porta, con Marassi la Juve un po' più vivo, eh? Aveva fatto Marassi una discreta un po' più partita, vivo. Ma aveva tirato in porta solo su punizione. Mm-hmm. Credo che ci sia da fare una riflessione. Sì, una riflessione che dovranno fare in molti, anche perché sono in molti, Liverpool compreso, che gli sganciano un sacco di quattrini. Allora, questi sono ovviamente alcuni dei temi, ne abbiamo moltissimi altri, da Totti a tutti i temi della settimana, al moto mondiale che arriva a Erez, poi ai cinesi. Milano è ormai la patria dei cinesi in giacca e cravatta che stanno venendo a fare shopping, almeno così si dice, poi Berinazzo ci illumina. Ma ce n'è anche un'altra, quella delle cimici nell'ufficio dell'Inter, state con noi. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Tutti convocati. Farla sentire per tutta l'ora e mezza che ci, no, tutta l'ora e un quarto che ci resta, dedicata a tutti noi, al principe e all'onorevole Gasparri. Senatore Gasparri, sì, onorevole. E a tutti quelli che lo hanno votato. Giovanni Caguano che con me, Maurizio Crosetti, che piacere. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Andiamo avanti a sentire Prince o parliamo di calcio? Beh, la stessa cosa. Magari è una birra. Fantasia. Che cos'è Prince? Cos'è sto Prince? Una birra? Disse il senatore Gasparri ieri a questi microfoni. Io credo che su Gasparri non dovremmo più dire niente. Come quando si dice di certa gente non bisogna dare notizie, perché gli si fa solo da amplificazione. Uno così, facciamo finta che non ci risulta. Facciamo così. Maurizio. Eccoci. Allora, facciamo l'audio forum. Questa settimana sì. ti tocca l'audio forum con me e mio amico Capuano. Non solo Prince, ma anche qualche voce. L'allenatore, anche Boateng arriva anche Boateng, l'altro Prince che non è chiaro perché ieri si è andato sul prato di San Siro, me lo sono chiesto, l'ho chiesto, non ho avuto risposte soddisfacenti, ma questo è Brocchi. Ogni giocatore ha il suo io e io ho bisogno di guardarli, ho bisogno di parlare con loro, ho bisogno di conoscere, ho bisogno di vedere il loro ego per capire che cosa possono darmi, che cosa posso dare io a loro e come mettere le varie caratteristiche di ognuno di loro all'interno di una squadra. Allora, gli allenatori dell'io, gli allenatori che hanno bisogno di introspezione, di guardare dentro, di guardarsi dentro e di fare giocare Prince Boateng. Non lo so, l'unico io delle società di calcio è quello che è l'io che paga, l'io presidente, e quindi è l'unico io che va accontentato, purtroppo anche l'io individuale ha le sue richieste, ha le sue necessità, però io agli psicologismi ho sempre creduto abbastanza poco. È importante la testa, se non ci sono le gambe, se non ci sono i piedi, ragazzi. Io e te abbiamo delle belle teste, mio caro amico, ma non riusciremmo a giocare nella mediana del Milan e neanche in nessun'altra mediana, ma temo. Neanche come Prince, Kevin Prince. Come Boateng quando sta fuori, sì. Sì, come sì, Boateng quando va in campo, no, nemmeno come Prince. No, cioè, allenatore, no, un ex giocatore, dicevo prima, da 2 anni, ma sono stato buono. Sì, ma il problema secondo me non è Boateng, perché, ripeto, basta leggere quello che ha detto Savicevic di Bonaventura dopo Sampdoria Milan. E secondo me il problema è che da un po' di tempo a questa parte, magari c'è anche chi spiega a Berlusconi tecnicamente, tatticamente, cosa si può fare, cosa no, cosa conviene, cosa no, anche cercando di ottimizzare quello che è il Milan di oggi. E poi quando succede che qualcuno invece fa il contrario e si mette sulla scia di quello che pensa Berlusconi, succede che gioca Boateng. Ma il problema è che il Milan lì non ne ha uno, magari Boateng può andare bene mezz'ora, un tempo, in un altro ruolo, ma quella cosa lì non esiste. Io ho l'impressione che sia tornato al Milan per storie che con il calcio c'entrano poco, ma probabilmente sì. Sono cattivo io, probabilmente no. Sono maligno e malizioso io. Comunque, ma è tutta una grande questione che parte da Boateng, passa da Brocchi e arriva a Bertolaso, tutte le B, e poi c'è dentro anche Berlusconi, tutte queste B che non c'entrano, ovviamente non nessuno pensi alla Serie B, ci mancherebbe, però sì. Al di là delle battute, mi pare che questa grande confusione ormai che riguarda quest'uomo, che ha fatto effettivamente grandi cose nel calcio sicuramente, in politica più che grandi forse le ha fatte grosse, però diciamo che ha fatto molte cose anche lì, non si può negare, a seconda di come se la si pensi, sì. Ma non c'entra, cioè, ha segnato e ai noi purtroppo rimarrà nei libri forse di storia, non so, ma di cronaca sì. Mi pare che la confusione che lo riguarda ormai da parecchio tempo metta dentro tutto, la crisi di Forza Italia, la confusione politica che riguarda Berlusconi e i suoi, è un po' anche il Milan, certo, sono aspetti diversi, però mi pare che non ci sia più tanta lucidità. Allora, altro argomento della settimana, lunghissimo, che ci siamo portati dietro da, insomma, forse da anche troppo tempo. I tapiri ormai li danno sempre agli stessi, se non è Mihajlovic è Spalletti, se non è Spalletti è Totti, comunque Spalletti è Totti. È stato un finale bellissimo, si può chiamare finale di partita diamantato, perché effettivamente è stata una partita dura, difficile, poi è entrato lui, si è andato a mettere subito là, ha fatto subito questo gol eccezionale. Comunque, signor Francesco, lei ha fatto il record dei record. Grazie. Cosa sarà del futuro adesso, allora? Con un'altra volta. Ma siete usciti a cena? Siete usciti a cena? No. No? No, siamo cordiali. Non vi siete incrociati? No. Sì. Appuntamento. Lei comunque rimarrà il capitano. Grazie. Dei capitani, signor Francesco, noi ci auguriamo che la prossima volta la faccia giocare un po' di più. Va bene. Perché 4 minuti sono pochi. Grazie. Lei mi deve fare un po' di più della partita. Va bene. Lei ha trasformato la Roma, signor Francesco, santo cielo. Vai, che bello. Numero 1, signor Crosetti. Bella storia, però, questa. Bella storia. Come tutte le belle, bellissime storie, sarebbe bello che finisse nel momento giusto. Ecco, io è un paio di giorni che ci penso, so che è una cosa che può far arrabbiare i romani, i romanisti, perché poi interpretano come se fosse una questione di tifo. Ecco, adesso lui è grande, vi smentisce, avevate detto che era finito e non accettate questo, avete torto e ce l'avete con lui. No, io penso che dal punto di vista anche narrativo, dai, diciamolo, è un po' abusato questa gente, però usiamolo, dai. Sarebbe magnifico se qualcuno ispirasse, se Francesco ispirasse Totti e gli dicesse: senti, più di così nessuno mai, chiudi a fine anno, chiudi veramente prima, a fine anno. Maurizio, io l'ho detto ieri, avrei un sogno, come diceva qualcuno di molto importante, vedere Totti che finisce la carriera in azzurro agli europei, lo so, è stupido, anacronistico, è... romantico forse, però no, mi piacerebbe vederla così, hai capito? sarebbe bello anche perché da un lato non mi pare che il gruppo che il povero Conte porterà agli europei, esatto, sia poi così incredibilmente superiore a Totti da tutti i punti di vista, quindi tutto sommato perché no, non sarebbe una cosa patetica, ma che vada o non vada non andrà naturalmente questa no, chiaro, agli europei. Sarebbe bello che non ci fosse un'altra coda di 10 minuti, 5 minuti, sì, musi, sì, assolutamente, chiaramente, assolutamente. Cioè tanto 40 anni arrivano a settembre, è così, cioè, lui è grandissimo ancora, ma che continui pure a giocare in America, in Qatar, in India, sulla Luna, però se lascia la Roma adesso, lascia se stesso dove più in alto non si può, cioè da lì, da quei due gol dell'altro ieri, può solo scendere, anche se non scenderà mai, perché è uno dei più grandi giocatori della storia. Sì, può però solo la storia alle volte si ingarbuglia un po', no? Si può un po' intorbidire, e non è, sarebbe un peccato. Può solo scendere dai due gol, però io onestamente lo capisco anche. Cioè, se togliamo dal tavolo il fatto che Totti pretenda di essere un giocatore che ha ancora un'ora nelle gambe, ma mi pare che questa cosa l'abbia capita anche lui, mi sembra che Totti abbia dimostrato in 10 giorni di poter essere funzionale alla Roma ancora per un anno, da giocatore, sì, esattamente come è stato in questo finale di stagione. Il problema è che c'è qualcuno che ci vuol far passare come ineluttabile una decisione maturata mesi fa, magari un anno fa, di cui Spalletti è oggi l'esecutore materiale, della volontà di una società che non si manifesta oltre, perché mi sembra che ad esempio la grandezza di Totti si misuri anche nel fatto che dopo 2 mesi in cui è stato dipinto dal suo allenatore come un ex giocatore con tanto di parametri fisici sventolati in conferenza stampa, e Maurizio sa che non è una cosa tanto comune, beh, lui alla fine è rimasto lì, l'ha chiamato per le frattaglie quando la squadra non stava più in piedi e gli ha portato un assegno da 50-60 milioni di euro. Io credo che Totti abbia tutti i diritti di pensare di poter stare ancora un anno in questa Roma, da calciatore. Sarebbe però soltanto molto, molto triste. Sarebbe da calciatore. Per me può star lì anche altri 15 anni, arrivare a 50, ma sarebbe semplicemente lui, triste. Ma lui non è un ex calciatore, però. Lui ancora no, però è un calciatore che ha un'autonomia sempre più ridotta. Non può accettare, dire a se stesso: tu sei diventato un fuoriclasse da un quarto d'ora, sei diventato altafine a fine carriera. Totti a Totti, questa cosa non la dice. E non dicendola, il rischio è quello di chiudere una storia malamente. Se poi lui accetta di fare la mascotte in campo o il risolutore degli ultimi 10 minuti, che però poi diventeranno a un certo punto 8, poi 5, poi 3, poi 1, e magari in quell'uno fa 2 gol, perché il fuoriclasse è quella roba lì, se lo accetta e nessuno più monta casi nazionali, cittadini per un'altra stagione, va benissimo. Dopodiché io credo che un club abbia anche il diritto, comprese le leggende, se hanno a che fare con questo diritto, di decidere che un campione, un chiunque, dal più grande al più piccolo, non rientra più nei piani. Totalmente, Maurizio, Juve, basta dirlo. Agnelli, come ha fatto con la Juventus, Piero, come ha fatto la Juventus fatto. Con Del Piero, che si è attirata anche tutte le critiche del caso, no? Guarda come hanno trattato. Anch'io ero perplesso, ci ho fatto anche un libro con Alessandro, mi ricordo. Fine. La Juve in questi anni ha costruito una squadra che senza Del Piero ha comunque vinto. Del Piero ha chiuso in una maniera grandissima quella volta contro l'Atalanta, è andato a giocare in giro per divertirsi, per fare esperienze, per vedere un po' di mondo. Di fatto ha chiuso la carriera quel giorno, perché poi lui è in l'Australia, l'India, però diciamolo chiaramente, Del Piero ha chiuso la carriera il giorno dell'ovazione a partita in corso che non si era mai vista nella storia del calcio. Quel giorno Del Piero ha finito. Un giorno così Totti lo merita, non merita di chiuderlo, di chiuderla questa storia un poco per volta, una panchina dopo l'altra. Le panchine vanno bene, i giardinetti per i nonni, dai. Totalmente d'accordo. Rubiamo 30 secondi alla borsa. A proposito di Juventus, Allegri, di nuovo campione, quasi, e il suo futuro? Credo che questa squadra abbia un futuro importante, sarebbe importante proseguire con questo gruppo per cercare di migliorarlo e soprattutto per l'anno prossimo fare una grande Champions, che sicuramente quest'anno ci è rimasta un po' di traverso. Ora pensiamo a chiudere bene il campionato, perché al momento mancano 4 punti, bisogna andare a Firenze dove sarà una partita difficilissima, però non bisogna andare a Firenze a fare una grande partita. Maurizio Crosetti, in 10 secondi cosa manca ad Allegri per coronare il suo sogno? Manca una Champions, che però manca a tutti gli allenatori tutti gli anni, salvo che a uno, quello che la vince. Quindi io non credo che la Juventus nel giro di pochi anni possa vincere la Champions. Credo che possa, visto che è arrivata l'anno scorso in finale, di provarci, ed è giusto che lo faccia con Allegri, che secondo me è andato molto oltre Conte e ha fatto quindi meglio di Conte. Assolutamente, grazie Maurizio, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, grazie Maurizio Crosetti. Borsa, torniamo. Non è stato sanzionato, altro bombone abbastanza inquietante. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Ammiro il suo coraggio, Miss Trench. Silvia Trench. E io ammiro la sua fortuna, Mister Bond. James Bond. Le cimici in ufficio, i cinesi sull'uscio, la Champions che se n'è quasi andata del tutto, un futuro ancora da scrivere. Sono stati, sono e saranno giorni di grande intensità all'Inter, tra inquietanti scoperte e cambiamenti imminenti nell'assetto azionario del club. Oltre alla Champions quasi sfumata in casa nerazzurra, si fanno i conti con un caso di spionaggio. L'amministratore delegato Bolingbroke, mentre rassicurava sul futuro del club, ha mostrato ai dipendenti una cimice. Una cimice, non insetto verde, una cimice, quella di James Bond. Trovata sotto una scrivania, intanto a Milano sbarcano i cinesi interessati a rilevare il 20%, questo e altro, scrive l'amico Andrea Sorrentino sul sito internet di Repubblica. Allora, Giovanni Capuano... Non è vero niente. Ma come? Moratti ha detto che è una notizia falsa e ridicola. Tendenziosa. Falsa e ridicola. E allora falso e ridicolo anche Bolingbroke. O ha messa lui. O non era una cimice. O cos'era? Non lo so. Una formica? Dobbiamo indagare. Una coccinella. Una farfalla. Cioè qualcuno dice una stronzata. O Bolingbroke che fa vedere la cimice l'ho trovata sotto la scrivania. Oppure Moratti che dice no, non è vero niente. Qualcuno racconta bugie. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono un tifoso milanista deluso. E ha messo la cimice, lei, è stato lei a mettere la cimice no. Nell'ufficio di Bolingbroke. Dica la verità, lo confessi. No, non posso confessare niente, anche se il dispiacere dei cugini, diciamo che mi fanno abbastanza piacere. Sento molto la rivalità con l'Inter. Quindi, vabbè. Sono d'accordo con l'analisi che avete fatto voi prima sul Milan, nel senso che le colpe non sono né di Brocchi né di Boateng, probabilmente ne erano prima di Mihajlovic, ma sono ai vertici della società. Di fatto Boateng è stato l'acquisto di gennaio, quindi anche sì, no, Brocchi... chi la raccontiamo? Dai Fabio, l'acquisto di gennaio, su. Dai. Appunto, dico bene, la volontà della società si è ben vista, è quella, cioè... Non voleva aiutare l'allenatore prima e quindi materiale a disposizione è questo, e credo che sia Mihajlovic prima che Brocchi adesso, pur avendo magari delle capacità indubbiamente, ma possono fare ben poco. Ma ha ragione Giovanni Capuano, sì, quando possono dice, fare ben poco, quando dice ma con questi qui il problema è che non si può giocare con un 10 ma anche un 8, un 4, non si può giocare col trequartista. Però cioè, usciamo un attimo da questa cosa, cioè, il Milan poteva fare di più quest'anno, secondo me poteva fare di più quest'anno il Milan relativamente, il Milan relativamente. In 10 partite tipo quella di ieri sera, quindi stiamo parlando di partite contro il Carpi, il Verona, l'Atalanta, queste partite qui, con il punto di ieri sera ha fatto 10 punti su 30. Allora sì, nessuno dice che il Milan fosse competitivo per arrivare al terzo posto con una quota terzo posto di 76, 77, 78 punti, vedremo dove arriveranno una tra Roma e Napoli. Però vogliamo dire che si poteva fare un po' meglio, che Mihajlovic poteva fare un po' meglio anche non con questo molto Milan. Meglio, il problema, secondo me, è che Mihajlovic, il trequartista, l'aveva provato quest'estate a inizio stagione e poi l'aveva abbandonato. E su quello aveva ragione. Su quello aveva ragione. E Brocchi ha perso altre due partite, perché a Genova gli è andata bene, ma ripeto, leggetevi che cosa ha detto Savicevic della prestazione di Bonaventura Marassi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno dottor Gente, buongiorno a tutti. Dica. Tifoso milanista, depresso. Depresso, va bene. Io ogni partita, ogni finale di partita del Milan, io ho bisogno dell'antidoto. Guardi, ieri c'era bisogno anche all'inizio con quella improbabile roba dell'Aca, posso dire, non solo alla fine. Il mio antidoto che... consiglio anche ai miei amici tifosi milanisti, che è di rivedersi i vecchi CD. Vanno a dire Milan, che tristezza, Barcellona. Che tristezza, ma no, ma guardiamo avanti. In modo supero la mia depressione. No, guardi, facciamo così. Vendiamo il Milan ai cinesi. Tanto di occhio a mandorla, stavamo vedendo ora le immagini. Gianni, hai visto quanti sono? Sì, la delegazione è quella cinesi, che è salita sua da Piano Gentile. Uomini, donne, cravatte, borse firmate, abiti eleganti. Sono un sacco. Marco Beninazzo, buongiorno. Eccomi, buongiorno. L'hai messa tu la cimice nell'ufficio di Bolingbroke, di la verità. Ma guarda, sì, devo dire. Ah, abbiamo trovato il colpevole. Confesso. Abbiamo trovato i responsabili, me la prendo io, tanto. Sei stato tu. Così. Sei stato tu. Quindi Moratti dice una bugia quando racconta, come ci sottolineava prima Giovanni, quando smentisce tutto. La cimice c'era e l'ha messa Marco Beninazzo, che a questo punto sa tutto del passaggio dell'Inter agli uomini dagli occhi a mandorla, che oggi sono sbarcati in massa e credo siano alla Pinetina in queste ore, no? Sì, sono alla Pinetina. Che è un bel posto, posto, uno dei simboli della storia nerazzurra, e non è appunto un caso che il passaggio di consegno, il passaggio, una quota importante dell'Inter, vedremo alla fine quale, sia in qualche modo suggellata da questa visita che resterà nella storia, con quelle immagini, no? Mm-hmm. Che poi tra qualche anno rivedremo. Io ho avuto la possibilità, ora al di là delle cimici, di parlare direttamente con Mike Bolingbroke e anche con lo stesso Toir la scorsa settimana. Sì. Quello che mi è stato ribadito è che l'affare si sarebbe fatto non per vendere la maggioranza, Toir non vuole assolutamente vendere la maggioranza, ma è chiaro che sul tavolo il 20% ha messo anche questa opzione. Il 20%, come abbiamo raccontato, permetterebbe a Toir di conservare la maggioranza assoluta anche nel caso di un'ipotetica alleanza Moratti-Cinesi. Sì. I cinesi vorrebbero qualcosa in più e chiaramente in queste trattative poi quello che conta è l'offerta finale che metteranno sul tavolo per le quote. Chiaramente i cinesi, ripeto, partono sempre per avere la maggioranza, poi come la storia di Mister B del Milan insegna devono fare i conti con delle resistenze, magari si fanno indietro quando si rendono conto che ci sono da mettere tanti soldi e perché c'è poco non da hanno, perché i cinesi hanno gli occhi a mandorla ma non hanno l'anello al naso. Assolutamente no, c'è un progetto, l'abbiamo raccontato spesso durante questi appuntamenti tutti convocati, di quello che è il piano di sviluppo del calcio in Cina, è un piano serio, non come da altre parti, dove si mettono tanti soldi, tante energie, ma poi si vogliono vedere i risultati, e questo sta determinando su entrambe le sponde del calcio milanese delle riflessioni molto serie che potrebbero portare da qui all'estate davvero a dei rivolgimenti radicali. Quello che è un po' triste, lasciamelo dire, che appunto realtà importanti del calcio italiano non trovino più delle compagini imprenditoriali nazionali a portarle avanti. Non che io sia un nostalgico o che non capisca quelli che sono i pregi della globalizzazione, però ecco, qui più che investimenti per lo sviluppo mi sembrano delle rese di un vecchio mondo nei confronti dei nuovi ricchi, ecco. Sì, poi resta il fatto che bisogna vedere che cosa decideranno sia Toir, e mi sembra che una situazione di quel tipo sarebbe non molto positiva per l'Inter, perché creerebbe una confusione anche di ruoli incredibile. Quanto al Milan, ne parliamo dopo il traffico. Tutti convocati. Convocati. sempre con noi Marco Berinazzo dal Sole 24 Ore, Giovanni Capuano. Dunque, dell'Inter abbiamo detto, secondo me una situazione, Giovanni, che è quella che ci delinea Berinazzo, è quella possibile, creerebbe solo un gran casino. Beh, tra io credo che... cinesi, Moratti e Toira. Non so se Marco è d'accordo, è tutta una situazione di passaggio. Noi dobbiamo arrivare a metà novembre, capire cosa vuol fare Moratti, capire quali saranno i rapporti di forza dopo metà novembre, quando scadranno i primi tre atti con i patti che erano stati sottoscritti nel 2013 tra Moratti e Toir, e da lì in poi forse la questione sarà più chiara, perché anche a me lascia scettica l'idea di una società a tre teste. Già a due abbiamo visto che qualche problema c'è stato, troppo. A tre effettivamente potrebbe esserci un cortocircuito, posto che poi anche tutte le altre operazioni che in questo momento vengono fatte intorno all'Inter fondamentalmente rispondono a una necessità, cioè di mettere soldi dentro la società senza chiederli ai due azionisti di oggi, Toir e soprattutto Moratti, perché in questi anni gli aumenti di capitale, cioè il modo per buttare dentro soldi freschi e andare avanti e avere liquidità, abbiamo visto che gli aumenti di capitale non sono stati fatti, sono state scelte altre formule. Sì, se volete una mia opinione personale, condivido insomma quello che l'idea di Giovanni, cioè che in ogni caso se una soluzione diciamo non radicale, ecco, della vendita del pacchetto di maggioranza completo sarà quella poi scelta per questo accordo, penso che sarà una soluzione ponte in vista di un passaggio poi sì, totale. Ma che dovrà comunque essere definito prima, no? Cioè non è chiaro, sì, lì bisogna da vedere i patti parasociali. Bravo. La cosa quello che intendo, diciamo, quello che sarebbe un peccato secondo me è il fatto che in questi due anni, così come si è cercato di trovare la quadra sul piano sportivo, così lo si è fatto anche sul piano, diciamo, del management, e faticosamente Toir con i consigli di Moratti ha messo in piedi una squadra a questo punto molto ben preparata, che però ha bisogno, come dico spesso, del propellente dei risultati per poter poi aumentare il fatturato e realizzare questi piani di internazionalizzazione del brand. Certo, tutti i piani, bravo, tutti quelli che sono stati sbandierati all'inizio. Senti, senza Marco, vincere è difficile realizzare. Andiamo a altri cinesi, stesso luogo, Milano. Milano, allora, qui abbiamo quelli del Milan. Esattamente, qui abbiamo sempre, diciamo, qui abbiamo un'incognita, mentre il gruppo Sunsing è in pole position per l'Inter. Sul Milan abbiamo, diciamo, una grossa incognita legata alla identità del consorzio, che comunque avrà un perno centrale, come spesso avviene in queste operazioni che i cinesi stanno facendo negli ultimi due anni. Certezza è il fatto che qui non si stia discutendo di una quota di minoranza, ma della maggioranza. Questa la voglio ancora vedere. Questa la voglio vedere. Chiaro. Sai che lì poi si va sempre a ricadere sul fatto che Rimes ha messo solo, diciamo, tra il 2014 e il 2015 altri 150 milioni. E Marina Berlusconi, persino Berlusconi, non vogliono più saperne del Milan. Se prima tolleravano il giocattolo, insomma, ora non ne vogliono più sapere. Però la decisione finale è sempre del padrone, di Silvio Berlusconi. Diciamo che bisogna comprenderlo nel suo tentennare, nel suo essere indeciso sul da farsi, ma è evidente che una decisione va presa e va presa presto. Ora non so se la deadline sarà effettivamente domenica, lunedì, con Silvio Berlusconi è impossibile fissare deadline, però è chiaro che i cinesi vogliono una risposta nel più breve tempo possibile per accelerare per la chiusura della trattativa e poter avere voce in capitolo per impostare la nuova stagione. Che poi alla fine significherebbe aver perso un anno, perché un anno fa, più o meno in queste settimane, se Berlusconi avesse dato il via libera alla cessione della maggioranza, probabilmente la storia del Milan sarebbe cambiata prima. Assolutamente, io cito sempre questo va ricordato. Come critica la data tra il 1 e il 2 maggio dell'anno scorso, quando nella notte si era definita la cessione del 51%, mentre la mattina dopo Berlusconi poi ci ha raccontato, voglio ancora vedere. Assolutamente, che si doveva vendere il 49%. avviare un processo molto complesso di quotazione per arrivare poi alla cessione totale del club nel giro di 2 anni, ed è lì poi che si è impantanato tutto. Sì. Un'ultima cosa. Comunque, scusa, ieri Berlusconi avrebbe detto questa cosa, che la partita è apertissima. A quanto mi risulta, la quotazione dei cinesi, che è circa di 700 milioni, non sarebbe pienamente soddisfacente, anche perché terrebbe conto anche dei debiti e quindi diciamo la cifra alla fine messa sul tavolo sarebbe più bassa, sensibilmente più bassa, e poi perché comunque non è del tutto tramontata l'idea di un ritorno di B, però il problema è che, così come in tanti non si fidano più di B, magari in tanti che si stanno approcciando al Milan non si fidano tanto che Berlusconi resti saldo sull'idea della cessione della maggioranza, e quindi diventa difficile tornare magari a coinvolgere degli investitori potenziali. Anche perché poi può capitare come quell'altra volta, la notte è fatta, la mattina si sveglia, no, non si fa più niente. Molto difficile trattare in questi termini, in queste condizioni. Marco, grazie, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Chiedono anche della Lazio ai russi, ti risulta qualcosa in un secondo? No dai, la Lazio ai russi no, però, ma almeno la Lazio, almeno salviamo lo titolo. Ah, no, qualcuno no, non è d'accordo, non sarà d'accordo, te lo dico già. Non ho riscontri su questo. Non hai riscontri, no, su non questo. Non ho riscontro su questo, ma ci lavoreremo, come va si bene. Dice in questi casi. Va bene, ok, a allora grazie Marco, ci fermiamo per il tempo del GR. Ma lo facciamo, rischia tutto dopo, sì. Ma lo facciamo, rischia tutto, cioè, sì, abbiamo un sacco di cose da dire e da fare. Finisce fare qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Convocati. Allora torniamo, sempre con me Giovanni Capuano qui in studio. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come va? Volevo fare gli auguri alla signora Pardo pubblicamente da sì, parte manca di una settimana, ma noi sai qua, io a Roma ci vengo poco, ormai sono un bar. Sei lombard? Sono un bar, mangio la cassuela, si mangia la cassuela, non la cassuela, la cassuela è un'altra cosa, la cassuela. La cassuela. Con l'ho chiusa alla cassuela, quindi la settimana prossima non ci sono, abbiamo anticipato, tanto che i festeggiamenti non si anticipano, ma sì, allora gli auguri li facciamo insieme Fausta, li facciamo insieme tra una settimana esatta alla signora Fausta. Perfetto. Intanto festeggiamo, e festeggiamo anche questa partita Afro Napoli United contro Liberi Nantes. Dimmi di che si tratta e poi io ti passo un paio di persone. Va bene, si tratta di una partita fra una squadra con la quale collaboro ovviamente in maniera carichi di Roma, che è la Liberi Nantes, che è una squadra di migranti che gioca in un campo tra l'altro simbolico, perché è il campo dove giocava Pasolini, il quartiere popolare di Roma, che è il quartiere di Pietralata, e con la quale ho iniziato assieme a uno sponsor, lo possiamo dire, che è Sintal, unicamente diciamo per fini di beneficenza, una campagna di sensibilizzazione nella quale poveri loro vincono per tutte le mie eventuali scommesse che vanno a buon fine, che sono pochissime, quindi praticamente sono morti di fame. Però insomma abbiamo una serie di obiettivi che pian piano si stanno raggiungendo. Ho avuto un paio di botte di fortuna all'inizio, che poi ovviamente sono un po' più in difficoltà, però insomma praticamente tutto ciò che viene vinto viene devoluto per questa squadra, e quindi insomma il pulmino, gli scarpini, il wifi all'interno dello stadio, e abbiamo fatto una partita con quindi, le leggende. Quindi sei di parte, sei chiaramente no. Francesco Pugliese, buongiorno. Non sono di parte. Ciao, buongiorno a tutti. Pardo è un avversario, se ne ricordi bene. Sul manto erboso. Come? Cosa ha detto? Dicevo, solo sul manto erboso per questa partita del 24, poi si è sempre amici, anzi questo deve essere ancora di più un motivo per unire, credo che la seconda finalità di questa partita sia proprio questa, no Pierluigi? Ci spieghi cos'è Afro Napoli, sono due realtà abbastanza simili, no? Gemelle. Sì, e tra l'altro, mi fa particolarmente piacere perché sono due realtà che nascono in due città che spesso poi vengono fatte vittime di episodi di razzismo, di dicerie, di luoghi comuni, di stereotipi. Una è la mia città, che è Roma, l'altra è una città dove vado sempre spessissimo con grande gioia, e quindi insomma, mi fa particolarmente piacere che da parte di persone che vengono da lontano, da migliaia di chilometri da qui, venga poi un bel esempio anche in vista poi della partita che ci sarà il 25. Pier, chi è Alberto Urbinati? Ce lo dici tu? Alberto Urbinati è il factotum, è l'allenatore, è l'Arrigo Sacchi dei Liberi Napoli. Alberto sì. Arrigo Sacchi Urbinati, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi dispiace, non è così, Pierluigi, io sono il presidente, sono... Volevo darti un ruolo diverso, dai, su, a 3-2, reggimi il gioco, volevo ergerti a guru, no? No, no, no, assolutamente, no, perché siamo un bel collettivo di persone, siamo una squadra molto... molto agguerrita e molto motivata, per cui è importante sottolineare questo aspetto, e a me non piacciono troppo queste le personalizzazioni, insomma. Ma Pardo lo fai giocare? Lo fai giocare, no, Pardo? No. Guarda, Pardo ha provato a giocare, abbiamo anche filmato questo suo tentativo di entrare in campo, e l'allenatore, diciamo, l'ha un po' tirata per le lunghe, alla fine credo che non ce l'abbia fatta. L'abbiamo messa sui social questa cosa? Sì, l'abbiamo messa, purtroppo ho fatto un video bellissimo con gli amici di Italy, in cui praticamente io stavo lì per 90 minuti che chiedevo il cambio, dicevo la riscaldo, è il momento mio, e poi alla fine in realtà non stavo mai. Beh, quando diamo l'appuntamento, quando si gioca? Allora, si gioca domenica alle 12, quindi domenica 24 alle 12 c'è il fischio d'inizio, però la giornata... comincia da un po' prima, dalle 10, perché c'è un'amichevole tra due squadre di ragazzi del quartiere, e poi prosegue appunto con Liberi Nantes e Staffa Napoli. Io volevo ricordare anche che noi siamo riusciti miracolosamente ad ottenere i disegni di Sherzad Hassan, che è questa bambina curdo-siriana che è ferma con tutta la famiglia ai domeni nella tendopoli, e che ha questo talento incredibile perché fa dei disegni veramente meravigliosi, sono veramente dei capolavori. Questa storia è già stata raccontata dai media, noi avremo la fortuna di ospitare questi disegni, quindi ci sarà anche questo aspetto culturale, insomma, chiamiamolo così, artistico durante l'evento. Bocca al lupo a tutti. Posso chiedere, no, agli amici di Apro Napoli che problemi hanno, che situazioni ci sono, c'era un problema a un certo punto della stagione, che cosa fanno loro? Sì, assolutamente, noi siamo una realtà affine a quella appunto di Liberi Nantes, siamo leggermente diversi anche perché so che Liberi Nantes è una squadra composta unicamente da migranti, mentre Afro Napoli è nata nel 2009 con l'intento proprio di sfruttare il calcio come volano di integrazione tra la popolazione autoctona, diciamo, tra i napoletani tukur e tutte quelle che sono realtà di migranti e non, perché tra i nostri tesserati ci sono figli di seconda e terza generazione provenienti da variate culture come quella di Capoverde. Il nostro capitano Aldair Suarez Delgado è appunto capoverdiano e vive nella sanità, in quartieri popolari che vanno appunto dalla sanità passando per la stazione, così come Forcella. E cerchiamo di raggruppare per l'appunto realtà differenti, penso a Diego Cantero, giocatore paraguayano, passando per gli ecuadoriani e gran parte della componente senegalese o ivoriana, e l'intento è sempre quello di riuscire a superare stupidi e stanti tabù razziali che a volte diventano immanenti nelle nostre culture, e nello stesso tempo di avvicinare, speriamo che questo possa essere un segno anche per, come diceva giustamente Pierluigi Pardo prima, cercare di dare un segnale tra due tifoserie che fino alla metà degli anni Ottanta avevano un fortissimo gemellaggio. Si è passati poi ai fatti assurdi del 3 maggio del 2014 di Tor di Quinto, quindi speriamo che possa essere un segnale per tutti i mondi, quelli di culture differenti, sia quelli della stessa cultura, che se lo dovrebbero ricordare, penso appunto lo romani e napoletani, che poi siamo molto simili, no? Certo, lo sarà ed è molto importante. Grazie, grazie Francesco, grazie Alberto, e grazie a Liberi Nantes e Afro Napoli United. Non è un caso, Carlo? Senti, dimmi, sì? Dico, non è un caso che si giochi il giorno prima di Roma-Napoli. Non è casuale. Però non è neanche, non vuole neanche, te lo dico per come l'ho pensata. Non neanche vuole essere una sorta di provocazione, una sorta di... assolutamente. Cioè, vuole essere il tentativo di fare una cosa piccola, perché è piccola, carina, che possa ricordare che poi alla fine le persone vanno giudicate non dalla provenienza, non dalla città dalla quale vengono, ma da se sono brave persone oppure no. Ti dico anche che la Roma ha aderito, non so ancora in che forma e in che modi, però insomma c'è un'adesione, quindi ci saranno probabilmente delle maglie poi, e ovviamente anche il Napoli, insomma, stiamo seguendo, c'è Nicola Lombardo che è persona di grande sensibilità, che sono sempre grande ascoltatore, che ho provato a chiamare, sicuramente tutto quello che può essere utile per renderla un pochino più ufficiale, per dare l'idea che attraverso queste due realtà un po' alternative, di gente che non è nata esattamente a Fuorigrotta o a Pietralato, a Centocelle, però insomma possa nascere un esempio positivo, ci fa piacere. Poi è ovvio che insomma non ci illudiamo che questa cosa possa rasserenare il clima fra le due tifoserie, perché no, è una questione. Però ogni segnale va bene, ogni segnale, ogni cosa che arriva non può che essere positiva. Ma poi c'è Anna Trieste che viene, la nostra amica Anna Trieste. Ah sì. Tanto che viene, sì, che viene. Saluta Milla, saluta Milla. Con gli Apro viene. Roberto, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. A lei. Vorrei sapere se è possibile fare due considerazioni, una sull'Inter e l'altra sulla Juventus. Certo. Ecco, non so se vi ricordate, o forse no, quando ci fu il mercato di riparazione e l'Inter acquistò Eder, io dissi che purtroppo non era il giocatore che poteva andare bene all'Inter, e in più ogni volta che l'Inter compra dei buoni giocatori diventano dei brocchi o dei bidoni. E voi mi diceste che non sempre è così e che forse poteva andar bene quel giocatore. Quindi adesso rivendica la paternità della sua verità. Io non ricordo, ma poi mi perdoni. No, però non so per quale motivo adesso è la stessa cosa che è avvenuta a Eder, capita a molti giocatori, purtroppo zero gol e quindi con scarsi risultati, come molti giocatori che vanno all'Inter sembrano che siano dei grandi campioni e poi si perdono per strada. Sì, ma capita anche altrove, sì. Adesso non è che non è. No, perché messa così mi sembra siamo un po' tranciati, è un problema la pinedina di aria, esatto. non è questo però sicuramente insomma l'Inter ha delle cose da farsi perdonare negli ultimi anni, come c'era il Milan, come c'erano tutta una serie di grandi storie a parte la Juve del nostro calcio che stanno faticando. Io penso che quest'anno ci sia stata un po' di confusione, perché alla fine Mancini abbia faticato a trovare una quadra vera e propria. Ci sono dei germi interessanti, una è certamente insomma la qualità di questo allenatore, poi c'è del talento sparso. L'anno prossimo l'Inter dovrà riuscire a essere un pochino più concreta. Difficile però anche guardare all'anno prossimo, per i discorsi che stavamo facendo prima, Giovanni. È difficile, giustamente Mancini, che tra l'altro sta parlando adesso, ha detto secondo me una frase importante da stamparsi a memoria per le prossime settimane. Ha detto: io ho un contratto con l'Inter e senza l'Inter me ne starei a casa. E quindi credo che questo serva da bussola anche per capire che cosa può succedere nell'Inter da qui alla prossima stagione. Mancini ha ragione, lui difende Perisic, Icardi, Brozovic, Eder, credo li terrebbe tutti, perché forse con due o tre aggiustamenti questa squadra, che chiuderà intorno ai 70 punti, potrebbe fare quell'altro salto di qualità per essere davvero poi l'anno prossimo competitiva per i primi tre posti. Il problema è che il mercato dell'Inter poi è appeso a scelte che non saranno soltanto tecniche e nelle quali temo Mancini non avrà nemmeno l'ultima parola. Certo, quindi molto difficile come sarà il futuro. Sarà un'estate un po' complicata. Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per il programma. Grazie. Scusate, ma sono un tifoso interista, perciò mi devo ripetere. Io una cosa mi piacerebbe, che magari se avete occasione di parlare con Mancini, se gliela potete chiedere, ma per due domeniche consecutive si può vedere la stessa formazione? Ti do un dato, è successo una volta, è successo, ecco. E neanche tra due domeniche consecutive, ma tra un mercoledì e una domenica. Mercoledì 6 gennaio, Empoli-Inter, e la domenica Inter-Sassuolo 0-1, poi avendo perso 0-1 è ricominciato il valzer. Mi sembra un po' poco durante l'arco di una stagione. E poi io credo un'altra cosa, forse non c'è uno spogliatoio che è diviso a gruppi, e io vedo in altre squadre che c'è sempre, bene o male, un capitano, veramente un capitano magari di 30 anni che è qualche anno che gioca nella stessa squadra. Ce ne fanno questione di leadership, sì, anche non neanche c'è. Al Milan se per quello, neanche al Milan può essere sì, una... Sì, no, però io posso dirti, guardo la verità, sono la Lazio dello scudetto del 74, ha vinto con due spogliatoi, lo citiamo spesso perché è sempre il caso limite ed è anche una storia molto romantica, molto letteraria. I due gruppi che si odiavano fra di loro avevano addirittura gli spogliatoi separati a Tor di Quinto una settimana e poi hanno vinto il campionato. Cioè, a me non sembra che il problema dell'Inter sia un problema di spogliatoio, di spirito. A me sembra che il problema dell'Inter sia che è oggettivamente quella lì, cioè è la quarta in classifica. certo, meno forte della Roma, è meno forte del Napoli, è meno forte della Juve. Ed è nella posizione che le compete più, punto più punto meno, questo è innegabile. Ragazzi, giochiamo un attimo prima di fare un salto a Jerez Moto Mondiale per capire come vanno le prove domenica, prima corsa in Europa. Giochiamo a Rischia Tutto, che è ritornato. Ragazzi, Fabio Fazio, 7 milioni e mezzo di ascoltatori. Voglio vedere, ma adesso me la vado a rivedere, che l'ho registrata. Perché... è registrata. Ma intanto ti faccio le domande, una a te e una a Capuano, e vediamo chi vince, va bene? Pardo, si parla molto del ritiro di Totti. Qual è il calciatore professionista ritiratosi più anziano nella storia del calcio? Ballotta. No, Stanley Matthews. Capuano, in pochi sanno che... è nella storia del calcio. Era cattivo. Ritirato, cioè 50 anni e 5 giorni d'età dopo 33 di età. Così è un tradimento però. Ragazzi, andiamo, non abbiamo tempo da perdere. Capuano, in pochi sanno che il capitano della Roma non è il calciatore più vecchio della Serie A. Di chi stiamo parlando? Chi è il più vecchio della Serie A? Chi è il più vecchio della Serie A oggi? Sì. È facile questo. No, tempo scorre. Dai, dillo tu. Luca Castellazzi, portiere del Torino, 19 luglio 75. Niente, siete preparati zero. Io portavo geografia. La sapevo io. La sapevi, non vale, non l'ho chiesto a te. A te invece chiedo, Pardo, qual è stato l'ultimo club in cui ha giocato Miccoli? Miccoli dell'Ipse. No. Il Messico. Il Birkirakara. L'ho detto giusto? Miracolo. Dov'è? Adesso io prendo il foglio, vedere se ne sei te. Capuani, ma che se lo chiamo? Ma come si permette di fare queste domande? Capuani, in quale città è nato Paolo Dybala? Ma non lo so, non mi ricordo. Laguna Larga, dai, lo sapete anche. Laguna Larga, lo sanno tutti. Pardo, la squadra di Allegri si sta avvicinando al quinto titolo consecutivo. Quali e quante altre squadre sono riuscite a compiere questa impresa in passato? Torino e Juve. Beh, ci sarebbe anche l'Inter, eh. Esatto, una in due. No, questo lo dico per un motivo semplice. Oggi sono i 10 anni della nascita di Calciopoli sulla Gazzetta dello Sport, esatto, e vorrei chiudere qua. Quindi se ti dimentichi l'Inter... 22 aprile 2006, ecco, quanti erano? Significa che apri a un altro tema. 2005-2010. Ultime due domande, Capuano. Con 30 gol Higuain è sempre più capocannoniere della nostra Serie A. Chi è il calciatore italiano che è riuscito a mettere a segno il maggior numero di gol in una stagione? Tony. Vinco 1-0. Però l'ultima è di Pardo, eh. Prima di fare l'allenatore, si sa, Sarri lavorava in banca. Ma quale banca? Banca Etruria. No, Montepaschi ha vinto Capuano. Mi spiace. Ma come ha vinto Capuano? Che te devo dire? Facilissimo. No. E poi io ho beccato le squadre avversarie. Ma poi, ma io mica mi occupo di banca, io sono Barisoni. Ma ci sembrano Barisoni io. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domenica. Vado a sentire che succede con le moto. Qua c'è un gruppo di, credo, studenti. Grazie a Pierluigi Pardo. Ah, domenica parliamo di moto, no Giovanni? 17-19 sì, tutti presenti. Ci apriamo perché apriremo con la vittoria di Valentino Rossi a Jerez della Frontera. Come? hai fatto il pendolone? Abbiamo fatto il pendolone, sì. Poi di cosa parleremo domenica? Ma guarda, è una domenica un po' particolare, quindi riviviamo un po' sicuramente quello che è successo durante la settimana, poi la sera abbiamo un meraviglioso Fiorentina-Juventus e sì, proviamo a trovare qualche lato stuzzicante. Sì, che potrebbe insomma avvicinare la Juventus allo scudetto, no? Ma sai, mancano 4 punti, potrebbero mancarne anche solo 3 se poi lunedì il Napoli non vincesse a Roma. Noi restiamo aggrappati che almeno si arrivi a maggio con lo scudetto, se proprio non si può tirare fino al 15 ci accontentiamo almeno di arrivare al 1 maggio, però è incredibile insomma. Tu dimmi se il 28 ottobre qualcuno sano di mente potesse pensare non solo allo scudetto della Juve ma ad aprile. No, assolutamente, nessuno avrebbe potuto immaginare il percorso che ha fatto. Vuoi ancora rischiare tutto? No, te le faccio domenica, dai. Roberto Ungaro, buongiorno. Ciao Roby. Ciao Carlo, buongiorno Ciao. A tutti. Allora, ci avviciniamo al primo Gran Premio in terra europea, ma è stata una settimana mica male, quella che abbiamo vissuto. Abbiamo una voce di Valentino Rossi, sentiamola subito. Jerez è una delle mie piste preferite, dove in passato sono stato molto molto competitivo, però negli ultimi anni sinceramente non sono andato fortissimo. È una gara importante perché bisogna cercare di stare più vicini e cercare di confermare la velocità che ho avuto nelle prime 3 gare, e probabilmente però raccogliendo non abbastanza. Questo Valentino Rossi, Capuano ha pronosticato una vittoria di Valentino, sai, Roberto? Caspita, sì, cosa? Sì. Allora, le seconde prove Valentino non è messo malissimo. Quinto e a 7 decimi sporchi dalla pole che è di Jorge Lorenzo. Jorge e Mark sono gli unici che hanno girato sotto il 40 e poi ci sono delle sorprese. Alex Spargaro, Suzuki terzo, è risalito. Hector Barberà prima, Ducati, non è quella ufficiale, quarto. E lo avevamo detto, quando si rientra in Europa inizia il campionato vero e qui le Ducati sono un po' in affanno. Tra Dovizioso settimo e addirittura Iannone undicesimo, a quasi un secondo e mezzo. Lo avevamo detto, chissà perché, ma le Ducati qui sono meno competitive e devono un po' risalire la china. Poi stanno aspettando Giorgio, come lo chiama, come lo chiama, sì, Dall'Igna. Sì. Ieri in conferenza Carlo è stato praticamente non ufficializzato, però Vignales, che sedeva davanti, fianco da Lynn Jarvis, è su al 99% la moto di Lorenzo, quindi in Ducati pare che abbiano deciso dei due Andrea rimarrà Dovizioso, Iannone diretto a sostituire Vignales, quindi prenderà in mano la Suzuki, e Pedrosa non è a posto di testa, si lamenta, non si trova con la moto, lui che è uno vero, le cose le dice, è sincero, per esempio ha detto che l'errore, la caduta, aver buttato giù Dovizioso, Non si trova proprio con la moto, quindi pare che sia partente dalla Honda. Lo avevamo detto forse in KTM per collaudare e portare il debutto la moto GP. Staremo a vedere, al suo posto potrebbe arrivare Rins. Staremo a vedere, però il mercato si sta assestando. Beh, il mercato si sta assestando, già il colpo da 90 è andato. L'altro giorno dicevo, l'ho detto diverse volte in questa settimana, mi piacerebbe tanto in puro stile americano vedere subito i cambiamenti. Cioè, ormai è fatta, è ufficiale. Lorenzo è di rosso vestito, sappiamo che Iannone andrà via e quindi perché non fare subito questo cambiamento? Sarebbe bello, sì. La cosa positiva è che ci sarà un top rider per ogni marca, perché Lorenzo in rosso e Valentino con la Yamaha e poi abbiamo comunque Marquez con la Honda, quindi sarà uno scontro ben rappresentato per le marche, perché un top rider ci sarà in ogni casa, non ci saranno se, non ci saranno ma, non ci saranno scuse, e vedremo, ma quello si parla di 2017. Iniziamo a gustarci questo campionato che è ancora tutto da scrivere, Carlo. Sì, tutto da scrivere, aspettando magari una vittoria di Valentino che ci darebbe un po' più di colore a tutti quanti noi. Grazie Roberto, ci sentiamo presto e ci vediamo qui lunedì. A lunedì, buona ciao, gara. Ciao Roberto tutti, Ungaro. Ciao. Quindi Giovanni, domenica partiamo da qui. Partiremo da Jerez della Frontera. Adesso niente, chiudiamo. Vuoi giocare ancora a rischio a tutto, non mi sembra. Qual è stata la prima squadra di Club di Brocchi? Qual è stata la prima squadra? Di Club di Brocchi. Qual è il soprannome livornese di Allegri? Ma mi hai rubato il fomo, okay. Acciughino. Acciuga. Qual è stato l'ultimo club allenato da Oddo Francesco, papà di Massimo, che adesso allena con discreto so. Successo il Pescara, l'Avellino. Beh, vedo che anche te sei messo bene. Ma mi hai rubato il foglio, so anch'io. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, nonché il perfido autore di queste domande da rischia tutto, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione, ci sentiamo domenica con Giovanni Capuano e Claudio Schiattone, che vedo sorridenti là dal vetro, dalle 5 alle 7 del pomeriggio, non di mattina, mi raccomando. Ciao domenica. Ciao a tutti.